Il gastronauta di Davide Paolini. Buongiorno cari gastronauti, ebbene oggi parleremo di un tema che piace a molti, perché i funghi e tartufi sicuramente sono molto graditi, ma a quanto pare quest'anno veramente ancora non sono arrivati in abbondanza come negli altri anni, sebbene i prezzi siano mantenuti, diciamo, a livelli accettabili. E forse, chissà, anche i funghi e tartufi risentono della crisi finanziaria. Comunque, chi li avesse visti, funghi e tartufi, chiami pure noi, il numero verde 800 24 00 24, messaggi SMS 349 238 6666. Allora, cominciamo questo giro d'Italia, appunto, andando nei luoghi deputati, come si dice, di funghi e tartufi. Però cominciamo dai funghi, cominciamo da Borgotaro. Abbiamo con noi Roberto Dalla Pina, che è presidente del Consorzio del Fungo di Borgotaro. Buongiorno Dalla Pina. Buongiorno. Lei le ha visti quest'anno i tartufi e i funghi? I funghi sì. Veramente pochi, perché quest'anno, mancando l'acqua, se ne sono visti pochi davvero. Ecco, facciamo la danza dell'acqua allora. Direi, ci vorrebbe proprio. Senta, ma veramente rari sono quest'anno? E quest'anno purtroppo sì, se ne trovavano proprio sporadicamente, visto che è piovuto talmente poco, solo magari nelle radure dove si era aggruppato un po' d'acqua, si è mantenuto un po' di umidità. Senta, i prezzi? E i prezzi, diciamo che sono abbastanza lievitati, non tantissimo, perché magari la gente anche non è che ne prenda, visto che ne nascono pochi, però sono, si aggirano sui 35 euro. E rispetto agli anni passati il prezzo è rimasto tale quale, è cresciuto? No, è cresciuto un po', anche perché il prezzo varia molto in base alla quantità di funghi. Ad esempio, 2 anni fa ce n'erano molti e il prezzo era intorno ai 20 euro. Ecco. Quindi non è che siano cresciuti molto, nonostante la rarità. Insomma, voi sperate ancora però in un arrivo? Noi speriamo ancora se arriva l'acqua. Ecco, se arriva l'acqua e poi si mantiene questo stato di umidità e non vengono le prime gelate, ne aspettiamo ancora. Purtroppo un po' la stagione è già andata, però... aspettiamo, ecco. Senta, fino a quando, secondo lei, secondo voi, secondo gli esperti, diciamo, si può aspettare e poi a un certo punto dire basta, non arrivano più? C'è un periodo particolare? Il periodo particolare dipende molto dalla stagione. Se si mantiene questa temperatura umida e non molto fredda, ne nascono, ma intorno verso metà novembre, massimo fine novembre in genere, ecco, di norma. Ecco, allora, cari radioascoltatori, qualcuno ne ha visti? Ne avete visti in giro per l'Italia? Segnalateci le località. Bene, però andiamo a verificare anche la situazione del tartufo. Ma sentiamo Francesco dalla provincia di Roma. Buongiorno Francesco. Buongiorno signor Paolini. Senta, mio cognato ha trovato una quantità notevole di funghi in zona, li chiamano la famiglia, ma è vero questa... questa varietà esiste? Ma mi dica innanzitutto la zona. Lago... oddio, il Trevignano. Allora, sentiamo il nostro Roberto Dalla Pina. Lei la conosce questa specie, questa varietà che si chiama la famiglia? Sì, noi la chiamiamo forse un po' la famigliola, diciamo. Sì, sicuramente sarà questa. Sì. Cos'è? Ci dica cos'è? È un gruppo di funghi che nasce abbastanza uniti, ecco, ci sono 2 varietà, è difficile riconoscerle. La più visibile è quella che, se nascono in coppia, non sono velenosi, il singolo fa venire un po' di mal di pancia, diciamo, ecco, non è proprio mortale, diciamo così. Ah beh, il signor Francesco da Roma, quindi attenzione, insomma, perché per cogliere i funghi ci vuole molta attenzione. Ma un SMS che ci dice dove sono: sul Montello, nel Trevigiano, stagione felice per i chiodini, ottimi con le tagliatelle oppure con salame, polenta e morlacco. Bene, quindi cominciano ad arrivare le prime segnalazioni. Grazie Dalla Pina. Dalla Pina, aspetti allora con tranquillità la pioggia, speriamo che arrivi, speriamo che arrivino i funghi. Bene, grazie. Sentiamo, allora andiamo a vedere il tartufo. Andiamo nella zona di San Miniato, in Toscana, andiamo da Monica Macci. Buongiorno Monica. Buongiorno a voi. Allora, qual è la situazione tartufi dalle vostre parti? Ci sono? Anche il tartufo, come ha detto l'assessore dei funghi, è scarso quest'anno a causa della pioggia. Quindi anche voi aspettate la pioggia? Noi aspettiamo la pioggia anche noi, sì. Senta Monica, ma i pochi che ci sono, quanto vanno? Vanno intorno ai 3.000 euro il chilo, non è lievitato tanto il prezzo, come diceva l'assessore di Borgosaro, la gente ancora insomma non può spendere tanti soldi anche se ce ne sono pochi. Ho capito, rimanga con noi, sentiamo Lorenzo dalla provincia di Milano, buongiorno Lorenzo. Buongiorno Sio Paolini, volevo dire che io settimana scorsa li ho mangiati anche tanti abbondanti in Valcellina, che è Maniago dietro Pordenone. Lei sta parlando di funghi? Sto parlando di funghi, sto parlando di porcini, proprio il Boletus edulis. Ho capito, quindi beato lei, come le ha mangiati? Come le ha mangiati? Ah, le ho mangiati in diversi modi, perché mi hanno fatto le cappelle fritte, poi le ho mangiati accompagnati con la carne, con la tagliata, le ho mangiati in diversi modi. C'era questo posto che mi avevano indicato in questa Valcellina, su un torrente, è una cosa eccezionale. Bene, beato lei. Torniamo a Monica Maci. Monica, ma fino a quando lei spera possano arrivare i tartufi? C'è una stagione in cui si dice stop, Big Bang, stop? Sì, noi speriamo dalla metà di novembre fino alla metà di gennaio. Se qualcosa deve uscire, quella è la data giusta. Quindi speriamo nel Natale, insomma, di fare un Natale con i tartufi? Sì. Sì, speriamo davvero nel Natale. Bene, grazie a San Miniato. Bene, ricordo il numero verde 800 24 00 24. Il gastronauta. Di nuovo buongiorno, eccoci alla ricerca di funghi e tartufi in giro per l'Italia. Bene, ho ricevuto moltissime segnalazioni, ora vi dirò dove ci sono, perché appunto questo è molto importante. Sentendo le persone che abbiamo chiamato, invece c'è molta scarsità, mentre i nostri gastronauti mi sembra che mi segnalano un po' di tutto. Ricordo numero verde 800 24 0024, sms 349-238-6666. Bene, mi segnalano nella zona di Gorizia, ci sono chiodini, grazie a Gianni. Francesco di Stradella ci parla di tartufi nell'Oltrepò Pavese, addirittura non avevo mai sentito nell'Oltrepò Pavese di tartufi, ma penso che siano bianchi, non so, bianchi o neri, chissà. E poi ancora mi viene segnalata un'osteria da Amerigo a Savigno. Bene, questo è un posto noto per il tartufo, ma anche per tanti altri prodotti. Una super tagliatella con tartufo bianco a 47 euro. Secondo me spesi bene, mi dice il radioascoltatore, ma non è per tutti. Non capisco se quel ma non è per tutti è un fatto economico o di altro genere o di gola. Bene, sentiamo ora un commerciante dei mercati generali di Milano, Maurizio Vaglia. Buongiorno Maurizio. Buongiorno, signor Paolini. Allora, a Milano stanno arrivando funghi e tartufi? Beh, a Milano, pur non essendo zona di raccolta, arrivano sempre funghi e tartufi, un po' da dove esistono, diciamo, no? Per cui non tante volte non sono, ad esempio, i funghi, tante volte non sono nazionali, no? Quindi certo. E ha altre provenienze, no? Quindi è una piazza internazionale, perché è sempre reperibile il prodotto. Quindi diciamo che è reperibile sempre, cioè in questo momento non avete avuto scarsità di funghi e di tartufi? Di funghi no, diciamo che saranno una quindicina di giorni che abbiamo un prezzo ottimale, per una qualità ottimale, un prezzo ottimale, no? Ce lo dice questo prezzo? Sì, diciamo che una qualità, sa che ci sono varie scelte, certo. No? Prima, seconda, la qualità migliore, no? a livello di ingrosso, no? Sì, certo. Noi a livello di ristorazione vendiamo sui 20 euro al chilo. No? Ho capito. Privato 24-25 euro potrebbe essere il prezzo di un gran prodotto, no? Quindi invece di tartufi niente, eh? Tartufi invece è un momento molto scarso, ma chiaramente noi abbiamo tante zone di raccolta, è chiaro. Tutta Italia e un po' di Jugoslavia, quindi capisce che il prodotto si trova. Da altre parti non c'è, ma qui c'è sempre. Senta, no? Mi dica la verità, il tartufo che arriva da fuori, in particolar modo quello che arriva al confine con l'Italia, perché arriva... Certo, sì, Slovenia. Sì, la qualità è molto diversa. No, onestamente no. Allora, all'analisi chimica è lo stesso prodotto, no? Certo. Sempre tu hai mangiato un pico, no? Se uno lo vede non lo riconosce la differenza. Innanzitutto, se è un prodotto fresco bisogna vivere molto la giornata, perché la natura non ce lo dà sempre uguale, no? Chiaro. E per cui in una zona più abbondante si può selezionare e avere più qualità, una zona più scarsa, certo, c'è meno selezione e quindi meno qualità. noi chiaramente privilegiamo maggiormente le zone che danno più abbondanza, sia per un problema di prezzo d'acquisto, sia per un problema qualitativo, no? Certo. Ecco, quindi, ad esempio, fino ad oggi la Jugoslavia è stata una, diciamo, le zone di confine sono state fra le zone privilegiate migliori, no? Bene, ormai la Jugoslavia poi è stata spezzettata, bisogna distinguere appunto sui vari, certo, vari stati. Vabbè, parliamo di due regioni soprattutto, sì. Slovenia e Croazia. Perfetto. No? Rimanga con noi Maurizio, che poi continueremo. Sentiamo Enzo dalla provincia di Pavia, un radioascoltatore. Buongiorno. Buongiorno, dottore. Sono un cercatore di tartufi per passione. Ah, bene, ci racconti allora. Però quest'anno più per compassione che per passione. Bella, benissima questa battuta. Guardi, purtroppo io sono uscito dal bosco che sarà mezz'ora, sono salito in macchina, ho sentito la vostra trasmissione, chi l'ha visto, ed in effetti è così. Posso portare la mia testimonianza. Ecco Enzo, ma lei dove sta cercando? Nell'Oltrepò? Allora, io questa mattina, no, sono andato nel Monferrato. Ah, ecco, perché mi sembra che nell'Oltrepò di tartufi ce ne siano pochi, insomma. No, è una buona zona, vado anche nell'Oltrepò, però diciamo io prediligo il Monferrato perché sono più comodo a raggiungerlo. Ho capito. E poi insomma effettivamente ne trovo qualcuno in più perché conosco qualche posto in più. Però devo dire che quest'anno, contrariamente all'anno scorso che è stata per me un'ottima annata, qualche chilo l'ho fatto nonostante che non sono un professionista. Quest'anno proprio zero, da quando è iniziata la stagione, dal 15 di settembre a oggi, tre buchi. Questo detto da me può essere, sì, sei uno che non è un professionista, ma conosco, ho degli amici che proprio lo fanno per certo. Partire, e sono i miei stessi bene. Livelli, per cui. Enzo, speriamo la prossimo sabato, dopo che mentre ci ascolta, magari che trovi qualche tartufo, poi ce lo segnala, anche se magari non parleremo di questo argomento. Beh, tra gli sms arrivati ce n'è uno in particolare che mi dice 3.000 euro al chilo, ho sentito bene o no? Sì, caro Francesco Barbieri, Francesco da Verona. Ha sentito benissimo, la signora da San Miniato ha detto 3.000 euro al chilo quei pochi tartufi che si trovano. Un altro sms, a fine settimana a Dello ci sarà la sagra del chiodino. Bene, speriamo che qualcuno trovi dei funghi lì. Continuiamo con il nostro giro, il giro d'Italia, e andiamo in una zona molto vocata ai funghi. Andiamo in Calabria, andiamo nella Sila e andiamo da Piero Lecce. Buongiorno Piero. Buongiorno a te, Davide Paolini, come stai? Bene, bene. E allora, Camignatello e dintorni, cosa c'è di nuovo? Ci sono i funghi? C'è di nuovo una cosa che succede da un po' di anni che è grandiosa in questo. Noi siamo in questo momento in piena manifestazione di funghi. C'è l'autunno silano fra funghi e tradizioni. Quindi ci sono i funghi, quindi lì l'abbiamo visto. Tantissimi, lei considera che oggi ho 6 kg di ovuli e 25 kg di porcini da me nel mio ristorante. Ma Piero, lei è uno dei pochi fortunati in Italia in questo momento. No, siamo fortunati nella nostra zona, in questo falso altipiano, la Sila, che sta dando funghi da marzo praticamente fino ad oggi in continuazione. Succede questo, Davide. La cosa importante è che noi non stacchiamo più le stagioni primaverili e autunnali, c'è meno quantità ma si è prolungata praticamente la qualità del prodotto. Quindi diciamo che tutto l'anno abbiamo 7 mesi pieni. 7 mesi pieni nella Sila. Sì. Piero, rimani con noi che sentiamo Simone da Roma, un radioascoltatore. Buongiorno Simone. Sì, buongiorno a lei. Ascolti, io ho una curiosità da sfamare da molti anni. Un mio amico mi portò molti anni fa dal Trentino, non ricordo se qual era la zona esatta, una raccolta di funghi che lui chiamava i finferli. Adesso sì. Io non so se questo è un nome popolare o appartengono a qualche famiglia conosciuta. No, guarda che i finferli sono dei funghi straordinari. Tra l'altro ho anche un sms che mi dice finferli a volontà in Valle d'Aosta, un sms di Paolo. No, guardi, li mangi, stia tranquillo perché sei un grandissimo prodotto. Grazie al nostro amico da Roma. Ma sentiamo Livio dalla provincia di Parma. Buongiorno Livio. Buongiorno a voi, alla vostra trasmissione e agli ascoltatori. No, volevo segnalarvi che in questo weekend in località Calestano, in provincia di Parma, c'è la sagra del Tartufo Nero di Fragno, che è una piccola località. Bellissima, bellissima comune, zona. Eccetera. Tra l'altro c'è una bellissima trattoria da Mariella. A Cafragna, esattamente. Allora, citiamola perché è un'ottima trattoria. Cafragna è lì vicino, sì. Però questo si chiama Fragno. Fragno, sì, che è nel comune di Calestano, mentre invece Cafragna è vicino a Sala Baganza, Collecchio, questa zona. dove si possono gustare i funghi invece i porcini, c'è la località di Fragno, c'è la sagra del tartufo. Quindi nero, c'è il tartufo nero, l'avete visto il tartufo nero? Qualcosa ce n'è, qualcosa ce n'è, non una grande confusione. Lei l'ha visto, siamo sicuri, siamo sicuri? Sì, sì, lo sicuro, sicuro, anche perché è un amico che è un cercatore, questo tartufo nero di questa zona. Quindi non era un UFO, insomma? No. Non bene, grazie, grazie Livio. Sentiamo Lino dalla provincia d'Avellino, altra zona importante per il tartufo, speriamo che ci siano a Bagnoli e dintorni. Buongiorno Lino. Sì Davide, complimenti per la trasmissione, volevo segnalarti che proprio ieri sera è partita la sagra della castagna, ma soprattutto del tartufo di Bagnoli Irpino. E i tartufi ci sono, non in quantità eccessiva, però tanti per soddisfare le esigenze delle migliaia di visitatori che già stanno offrendo nelle nostre zone. Quindi Lino, lei li ha visti, insomma, ci garantisce sì, che... Ne ho portati un bel po' anche a casa, quindi bene. Garantisco sulla qualità e sulla bontà del prodotto. E quindi vi aspettiamo qui in provincia di Avellino, a Bagnoli Irpino, nei pressi dell'Aceto, per questa sagra che già sta richiamando tantissimi visitatori. Bene, grazie, grazie Lino. Volevo ricordare che appunto Bagnoli, Irpino e dintorni è una zona importante per il tartufo. Di solito si parla sempre di Alba, di Acqualagna, ma non si parla ad esempio del Molise, non si parla di queste aree che, dove il tartufo sicuramente c'è e magari, come sentite, anche quest'anno lì si vede che è piovuto, si vede che la stagione ha beneficiato appunto questa zona. Sentiamo ancora un altro radioascoltatore, bravi, che oggi segnalano chi l'ha visto. Claudio dalla provincia d'Alessandria. Buongiorno. Buongiorno Claudio. Dunque, io sono un tra virgolette un coltivatore di funghi, nel senso, ho tirato giù tre piante di salice che ormai erano vecchie, ho lasciato i ceppi e ogni anno mi faccio i miei 3-4 kg di chiodini. Beato lei, quindi le costano anche poco, tutto sommato. Esatto. Va bene. E fra le altre cose ho fatto proprio ieri una zuppa di chiodini. Sì. Che praticamente ho rosolato i chiodini con burro, cioè prima ho fatto imbiondire cipolla e aglio, poi li ho rosolato nel burro e poi li ho tirati con del brodo di carne. Bene. Per fare proprio zuppa. Grazie Claudio, voglio tornare da Piero Lecce della Tavernetta, appunto, di siamo in Calabria, voglio chiedere il piatto, diciamo la specialità. Piero, ascolto, sì, bene. Allora, noi in questo momento stiamo servendo insalata di ovoli e porcini, ma il piatto di tradizione è l'Achitarius Deliciosus, che noi chiamiamo Rosito, che è quello nostro, in questo territorio se ne fa tantissimo in questo periodo, non ha prezzi eccessivi, quindi si porta a tavola con una certa tranquillità. È fatto i rositi tirati con uno spicchio d'aglio, i profumi dell'orto nostro, e poi fatto con la mollica di pane croccante, come si faceva una volta con la mentuccia, il basilico e il prezzemolo. Bene. È un grande piatto che stiamo servendo a un prezzo qualità eccezionale. Ti ringrazio. Questo. Piero, a presto e buona stagione. Io voglio tornare da Maurizio Vaglia. Maurizio, volevo chiederle, ma è vero che arrivano anche funghi dalla Norvegia? Questo periodo no, ma è zona anche di funghi, certo. Quindi... Finlandia, Norvegia. Ma è un... Quindi arrivano un po' da tutto il mondo, insomma, i funghi, ormai li hanno scoperti in tutto il mondo. Si è visto poco quella zona, ma diciamo che dal nord della Russia, no? A tutta la fascia nord, diciamo, dell'Europa è buona zona, ma addirittura mi risulta che anche in Cina. Beh, lasciamo perdere il fatto cinese dello scandalo di qualche anno fa dei funghi avvelenati, perché gli erano stati iniettati dei coloranti e dei profumi per renderli più accettabili. Quindi lasciamo stare la Cina, perché ogni volta che esporta un prodotto alimentare sicuramente avvengono dei disastri, come ultimamente con il latte. Bene, grazie a Maurizio Vaglia. Il gastronauta. Eccoci di nuovo, cari gastronauti, alla ricerca in questa Italia di funghi e tartufi. Però ho due sms importanti da leggere, perché uno, diciamo, è molto provocatorio, è molto polemico. Quante balle dalla Sila, 7 mesi di funghi, chi ci crede? E vai con le scatole. Bene, io credo che se ci sia qualcuno che vuole rispondere dalla Sila, ben volentieri a questo radioascoltatore che ha messo in dubbio cosa diceva prima Piero Lecce. Ma un altro sms, anche questo questa diciamo divertente, dice: incredibile ma vero, nel cortile della caserma Montegrappa, Torino, zona stadio olimpico, ci sono tartufi. Bene, bene, quindi non so se sono nel cortile nel senso che si mangiano o veramente sono spuntati nel cortile. Vorrei che questo radioascoltatore magari intervenisse per spiegarci questo mistero. Sentiamo Mirko dalla provincia di Massa Carrara. Buongiorno Mirko, radioascoltatore. Buongiorno, sono Mirko Bazzali, qua chiamo da Villa Franca praticamente. Niente, volevo segnalare che siccome noi facciamo il centro raccolta funghi qua in Lunigiana, sì, posso già dire che sono già 4-5 giorni che, non dico tanti, ma 4-5 raccoglitori ne portano sempre intorno ai 20-30 kg al giorno. Bene, quindi li avete visti Mirko, siamo sicuri? No, li abbiamo mai visti, anche mangiati. Bene, bene, erano buoni? Sì, erano molto buoni, molto buoni. Come al solito, adesso non per nulla togliere a quelli di Borgottaro, per l'amor di Dio, che sono dalla parte di là del monte. Però anche i nostri sono di una qualità eccezionale. Bene, grazie a Mirko. Allora, ora andiamo in Molise. Andiamo in Molise perché Molise, pochi lo sanno, ma è un grande, diciamo, un grande fornitore di tartufi. Ci sono alcune zone deputate proprio nel Molise, nella zona di Avellana, molto, molto note anche per la qualità. E allora interpelliamo lo chef più famoso del Molise. Buongiorno a Bobo Colombo. Ciao Davide, grazie. Il suo ristorante si chiama Ribo ed è, vuol dire Rita e Bobo, sono marito e moglie. Bobo, ma ci sono i funghi, i tartufi quest'anno? Allora, quest'anno non è una grande produzione in certe zone ce n'è tantissimo perché in certe zone hanno avuto il clima giusto, acqua e tutto, qualche zona è rimasta asciutta, però c'è dei tartufi meravigliosi con dei profumi incredibili. E ci sarà, diciamo, un raccolto medio abbondante. Quindi ancora una volta il Molise, insomma, la sua fornitura all'Italia di tartufo la concederà? Sì, io ho fatto un'indagine così, il 40% di tartufo bianco viene dal Molise. Addirittura, così. La fortuna di avere la stessa varietà del tartufo di Alba. Bene, grazie a Bobo Colombo, il ristorante Ribo di Guglionesi, grazie, grazie tante. Quindi un'affermazione abbastanza importante, ma ora sentiamo Emanuele della provincia di Pordenone, radioascoltatore. Buongiorno Emanuele. Sì, buongiorno a voi. Volevo fare una segnalazione. C'è una situazione un po' strana quest'anno per quanto riguarda il tartufo. Premetto che io sono un appassionato, un cavatore di tartufi. E si sta verificando che nelle tartufaie di nero pregiato o nero di noccia come denominato, i tartufi stanno già andando in maturazione quando che il periodo giusto dovrebbe essere tra gennaio e marzo, e questo sta provocando non pochi danni alle tartufaie perché non entrando in produzione nel periodo suo naturale, il prodotto o viene cavato o va in marcescenza. Poi qui da noi in Friuli la situazione del tartufo nero di ordinario, quello di Bagnoli denominato, è molto buona, si sta cavando molto tartufo nero a dispetto del bianco, dello scorzone che ce n'è pochissimo. Bene, grazie, grazie Emanuele di questa segnalazione friulana, grazie. E caro Gian Gregorio di Campobasso che hai mandato questa sms, sei arrivato tardi perché avevamo già parlato di San Pietro Avellana in provincia di Esernia, bene, li conosciamo bene i tartufi di quella zona, ma ora andiamo nella capitale del tartufo bianco d'Alba, come si aggiunge molte volte, Tuber Magnatum Pico. Andiamo da un grande commerciante, un grande cercatore a Montà d'Alba che si chiama Paolo Ceruti. Buongiorno Paolo. Buongiorno Davide. Allora Paolo, quest'anno come va la stagione nella capitale? Ma siamo ancora nella luna di settembre in questo momento, quindi siamo speranzosi che appena viene la luna, cioè mercoledì 29, cambieranno anche le cose. Stiamo entrando nel periodo di assoluta qualità del tartufo, che è il mese di novembre. E stamattina sul mercato abbiamo visto già aumentare un po' la produzione, ma soprattutto la qualità. Andiamo verso il periodo di qualità migliore. Ti confermo che nella caserma Montegrappa i tartufi vengono, perché ho fatto il militare lì. Ah, bellissimo questo! Anche se non ho mai potuto portare il cane, perché mi sembrava un po' una forzatura, la situazione era ottimale per la crescita dei tartufi. Quindi nella mensa militare di questa caserma c'è il rischio di mangiare i tartufi? Io non so se loro sanno che sotto sono i tartufi, però a Torino in diversi posti crescono, questo sicuramente. Senti Paolo, hai parlato di luna, ci vuoi spiegare l'influenza della luna sul tartufo? Ma l'influenza della luna è importante, perché tutti i trifurao anziani lo guardano sicuramente, nel senso che quando viene la luna vanno in modo più intenso. Non so se sia il fatto che vanno di più, ma ne trovano anche qualcuno in più quando viene la luna. Adesso l'influenza che abbia è difficile da spiegare, no? Però ce l'ha di sicuro, ecco. Il fatto che nel mese di ottobre sia trovata poca roba, oltre all'acqua, che è che quest'anno siamo in ritardo di luna, benché siamo al 25 di ottobre, siamo ancora nella luna di settembre, quella di ottobre verrà tra qualche giorno. Quindi siamo speranziosi, insomma, che arrivi. Senti, i prezzi che livello hanno raggiunto quest'anno, visto che c'è così poco tartufo? I prezzi sono abbastanza alti, vanno dalle 300 euro anche alle 400, però quello che io vorrei dire anche agli ascoltatori è che non bisogna anche sempre cercare di scegliere quelli di proprio belli rotondi, perché a volte anche quelli piccolini, malfatti o rotti, che costano decisamente meno, cioè si possono comprare anche in questo periodo della roba piccolina che è buonissima, anche solo a 200-180 euro al letto, però bisogna accontentarsi di pezzature piccole o magari rotta. Il cane bravo trova i tartufi piccoli, non trova quelli grossi, questa è una cosa importante da dire, il tartufo grosso viene trovato a volte anche per fortuna, non solo per bravura, certo, quindi certo. Quello piccolo è anche molto profumato. Bene, io vorrei ricordare che il 9 di novembre a Grinzane Cavour nel castello ci sarà come ogni anno questa asta di beneficenza. Il collegamento quest'anno sarà con Tokyo, quindi diciamo che i consumatori o gli appassionati giapponesi concorreranno all'acquisto di questi tartufi appunto messi all'asta a Grinzane Cavour. Bene, sentiamo una radioascoltatrice, Francesca dalla provincia di Perugia. Buongiorno Francesca. Buongiorno, complimenti per la trasmissione, sempre interessante. Grazie. Mi dica. Noi, io sono una cavatrice di tartufo nella zona di Gubbio, quindi Alta Umbria, esattamente Alto Chiascio, e anche noi, la zona dove si produce tartufo bianco, tra l'altro di ottima qualità, sicuramente non conosciuto come quello di Alba, però insomma di una qualità discreta che sta avendo abbastanza successo. Stesso discorso di molti altri radioascoltatori, e cioè ha fatto un agosto afoso, secco, e purtroppo non se ne trova. La cosa però positiva è che quando si trova è di ottima qualità e quindi costa tanto ma è buono. Bene, grazie a Francesca. Bene, la cosa divertente è che mi arrivano segnalazioni di tartufi un po' da tutta Italia, anche in zone che sinceramente non conoscevo. Ora me ne è arrivata una zona della Valpolicella, anzi si stupiscono che non abbiamo parlato del tartufo nero della Valpolicella, ma io veramente mai sentito del tartufo nero della Valpolicella, quindi sicuramente ben volentieri. Così cito anche questo, ricordo numero verde 800 24 00 24, messaggi sms 349 238 6666. Poi ancora vedo che mi segnalano anche mi dicono che il tartufo nella caserma è proprio nel terreno del giardino della caserma, grazie di questa ulteriore segnalazione, mentre sempre dal Veneto mi arrivano segnalazioni di chiodine del Montello. Bene, questi sono famosissimi nel Trevigiano. Bene, abbiamo con noi un ristoratore della bellissima Montecatini Alta. Abbiamo con noi Fabiano Lenzi, che è gestore della torre. Buongiorno Lenzi. Buongiorno, buongiorno. Dunque, lei nel suo ristorante ha una politica di far trovare i tartufi tutto l'anno, e quindi è un po' un ONU dei tartufi, perché sicuramente a seconda della stagione arrivano. Ecco, mi dici i paesi più strani da dove arrivano, no, i funghi più strani. Praticamente da tutto il mondo, dipende dai periodi chiaramente, si parte dall'inverno con gennaio, febbraio e marzo, che abbiamo forniture da Sudafrica, Zimbabwe. Anche dallo Zimbabwe? Assolutamente sì, sembra strano ma è proprio così. Questi bisogna proprio andarsela a cercare, perché effettivamente forse non ce ne sarebbe nemmeno bisogno, il sapore non equivale al nostro, ecco, non è che sia del livello a cui siamo abituati, però la richiesta c'è, per cui... Senta, passa... prego. Volevo chiedere, ma c'è un controllo igienico-sanitario importante anche su questi, su questi funghi che arrivano da paesi così lontani, dove spesso... Dico, alla frontiera si fanno già dei controlli piuttosto minuziosi, e poi ogni consegna di funghi, ogni bolla d'accompagnamento è corredata di un certificato micologico da parte dell'ASL di Firenze, nel caso nostro, che ne certifica anche la radioattività, eventualmente. Proprio la cosa è assolutamente scientifica e precisa. Ecco, Senta, ma quale specie sono questi tartufi che arrivano ad esempio dallo Zimbabwe? Sempre funghi e in ogni caso porcini. Ah, sempre porcini? Sì. No, la differenza per esempio per quanto riguarda i funghi africani è che chiaramente crescono in una situazione completamente diversa a quella a cui siamo abituati noi, e per cui non abbiamo gli stessi sapori, abbiamo più che altro l'aspetto. Mentre per quanto riguarda funghi che provengono dal nord Europa, tipo dalla Finlandia, la Svezia, la Norvegia, che quest'anno è stato un buon produttore essendoci questa carenza così certificata da noi, da quelle parti, ecco, abbiamo dei funghi ancora con meno sapore, però funghi sani, belli. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a scoprire aree nuove di tartufo e di funghi. Sentiamo Pasquale da Milano. Buongiorno Pasquale. Sì, buongiorno Paolini. Dunque, io volevo portare questa testimonianza, non per replicare all'amico di prima, all'ascoltatore di prima, che diceva che era falso quello che si diceva in Calabria. Io chiamo a Milano, però sono di origine calabrese. Porto questa testimonianza. Mio padre un mese fa, poco più di un mese fa, inizio settembre, è andato giù in Calabria in vacanza, è andato in Sila, a Camigliatello, a far funghi, la seconda o terza volta in vita sua, e succede che con due amici portano a casa 30 kg di porcini. Sicuramente io ho letto per dovere, chiamiamo di cronaca, visto che c'era questo radioascoltatore, poi per non che pensasse che nascondo gli sms che magari sono contrari a quello che dice qualche invitato, quindi l'ho fatto, ma io ci credo assolutamente, sono stato più volte in quella zona lì. Comunque grazie a Pasquale da Milano. E a proposito di tartufi, invece, andiamo in un'altra grande capitale, che è Acqualagna, e andiamo da Giancarlo Marini. Buongiorno Marini. Buongiorno, buongiorno a lei e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Come andiamo? Mi dia le notizie, mi dia le notizie da Acqualagna. Che succede sul tartufo? Arrivano al mercato? Ma guardi, Acqualagna secondo me in questo periodo è l'unico paese in Italia dove ci sono dei tartufi. Bene, questa è una grande notizia. Si vede che siete fortunati, avete vinto l'Enalotto, anche voi forse. Noi siamo un po' favoriti dalla natura. E quest'estate anche una grandinata fatta il giorno di Ferragosto ci ha danneggiato per certi versi, ma per i tartufi ci ha sicuramente favorito. Senta Marini, a che prezzo vanno i tartufi da voi? Dunque, quest'anno si aggirano intorno ai 3.500-4.000 euro al chilo per le pezzature belle, e per le pezzature piccole siamo sui 2.800-2.700. Quindi ci sono. C'è da dire che quest'anno, secondo me, il tartufo di Acqualagna è veramente un concentrato di profumo, perché ha subito un po' la siccità, non ha acqua, i tartufi sono di una bella dimensione, pesano poco. Secondo me chi compra tartufi qui di Acqualagna fa un affare, compra il concentrato, proprio il concentrato, non compra acqua, perché... Bene, rimanga con noi, sentiamo Stefano da Piacenza. Buongiorno Stefano. Sì, buongiorno. Io vi ho chiamato perché volevo sapere se non aveva mai sentito delle coltivazioni di tartufo. Sì, sì, ci sono. Praticamente danno queste piante micronizzate e nel giro di 4, 5, fino a 8 anni dovrebbero esserci poi dopo i tartufi. Esistono come? Quali possono essere poi i risultati? Sono abbastanza contraddittori, comunque esistono ed è vero. Sentiamo Tina da Milano, buongiorno Tina. Buongiorno dottor Paolini. Ecco, volevo solo segnalare che a Milano i mercati sono pieni di funghi, ecco, lei parlava di carenza quest'anno, eccetera. Certo, alcuni arrivano dalla Romania, però stando ai venditori, altri invece sono italiani. Beh, sono cassette piene, peccato, 20 euro, 25. Peccato che non abbiano il marchio di provenienza, magari non sono marchiati, comunque controllate, ma non è mica detto che i funghi che arrivano da fuori siano inferiori. Io ho detto che in Italia in questo momento ci sono pochi funghi e pochi tartufi, è evidente che arrivano da tutti il mondo, ormai come ci ha così illustrato Fabiano Lenzi, addirittura arrivano dallo Zimbabwe, arrivano dalla Norvegia, dalla Finlandia, quindi sicuramente ormai la globalizzazione porta anche questo. Poi in bocca i sapori sicuramente sono completamente diversi, quindi chi si accontenta gode, come si dice. Grazie a Tina da Milano, sentiamo Roberto, sempre da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno signor Paolini, la sento un pochino distante, ma volevo dirle questo, d'accordo che i funghi e i tartufi sono i principali per quelli della tavola. Però io vorrei che lei lanciasse una grida per sapere dove ci sono anche le castagne, perché un pranzo con le castagne è sempre buono finirlo, perché io sono andato, ce ne sono poche, piccole, e questi posti, tutta questa gente che telefona, se magari ci dice là ci sono dei buoni, ce ne sono, perché quest'anno, visto che non sono Roberto, molto... Roberto, purtroppo siamo in coda alla trasmissione, mancano pochissimi minuti, magari lo lanciamo, vediamo nelle prossime trasmissioni. Bene, chi l'ha visto per le castagne, chi le ha viste ce le segnali. Grazie Roberto da Milano. Voglio tornare un secondo a Giancarlo Marini. Lei pensa che la stagione durerà così ancora a lungo, così fortunata per Acqualagna? Credo che, anzi, aspettiamo addirittura un miglioramento, addirittura nel mese di novembre sicuramente avremo un miglioramento. Io la definirei per Acqualagna l'annata del secolo, perché i tartufi hanno un profumo e un'intensità eccezionale. Questa, secondo me, per Acqualagna è l'annata del secolo. Ah, quindi benissimo. Allora, io non vorrei, faccio una battuta provocatoria, sì, non vorrei che fosse come per i produttori di vino, che ogni anno dicono che è l'annata del secolo, quindi, ma l'annata del secolo ce n'è una solo, non è tutti gli anni. Beh, io spero che lo sia comunque per il tartufo di Acqualagna. Voglio tornare un secondo da Fabiano Lenzi. Senta Lenzi, ma i suoi, diciamo, avventori scoprono se, cioè si rendono conto che molti di questi tartufi non sono made in Italy? Funghi, scusi. Premetto che molti me lo chiedono, e poi la presenza sulla nostra tavola è prevalente nel periodo canonico, le ripeto, da maggio fino a novembre. Le ho citato la reperibilità perché a secondo delle esigenze le possiamo trovare e confermo che per tutto l'anno si possono trovare funghi sul nostro mercato. Comunque la domanda mi viene posta molto spesso, se non sempre, e siamo in grado di dire sempre da dove vengono. Sentivo che un ascoltatore, anzi lei prima diceva, non siamo in grado di sapere da dove vengono. La provenienza su ogni bowl, io le ripeto, il normale approvvigionamento, quello da un mercato, ecco, questo è seguito da una bolla ma lei lo sa, ma anche la provenienza. Io stavo parlando del consumatore al banco, che è una cosa completamente diversa. È mio dovere. No, io non dico del ristorante, io dico del consumatore che va a un banco, lo compra, e purtroppo molte volte la provenienza non si sa. Grazie comunque Fabiano Lenzi. Ultimissimo radioascoltatore, Claudio, velocissimo, dalla provincia di Vicenza. Sì, buongiorno Paolini. Qua nella zona nostra sono due settimane che di funghi ne troviamo bene e tanti, anche dal nocciolo, cioè dal chiodino che arriva dal nocciolo, dalla robina, dal noce. Per quanto riguarda le castagne dell'ascoltatore di Milano, altra zona vicino a noi, la Vallata d'Alpone in provincia di Verona, tra castagne e marroni quest'anno ne hanno avuti, perché ne hanno avuti veramente. Io ho venduto in passato nel settore catering alimentare, i funghi li vendevo e dico che sì, è vero che saranno buoni quelli che arrivano dalla Romania, dallo Zimbabwe o dalla Spagna, ma il fungo nostro è secondo me sempre il migliore. Però Claudio, quando non ci sono, non bisogna fare come quelli di Faenza, che se non ce l'hanno fanno senza, bisogna andarli a cercare, per cui magari ci si accontenta anche di altro. Grazie anche a Claudio dalla provincia di Vicenza, ringrazio tutti i radioascoltatori che sono intervenuti così numerosi e i nostri ospiti. Io vi do appuntamento alle 12:15 con il Wine Bar del Gastronauta, tutti i giorni con la pillola alle 18, e quindi qui mi fermo, vi auguro un buon weekend e spero che troviate tartufi e funghi, e quindi di smentire in maniera veramente rigorosa questa trasmissione che era intitolata Chi l'ha visto. Però cosa abbiamo imparato? Abbiamo imparato che l'Italia sembra essere diventata una fungaia, una tartufaia, perché da ogni parte d'Italia, anche non conosciuta, sono sbucati fuori sia funghi che tartufi. Ebbene, questo è un grande bene per questo paese, speriamo che vengano autoconsumati e si importi sempre di meno. Buon weekend con funghi e tartufi, quindi con grandi profumi e grandi sapori, dal vostro Gastronauta. A presto!